Il manifesto ha una doppia valenza, intanto perché sancisce una serie di principi e di valori che oggi il mondo del sociale bolognese, o perlomeno dei firmatari, e i firmatari sono tutte realtà sociali che hanno partecipato di struttura pubblica su disagio abitativo, sono appunto valori che condividiamo e che ogni giorno con la nostra azione mettiamo in campo nei relativi campi di intervento. Semplicemente appunto si voleva provare a costruire una grande alleanza sociale per il diritto ad abitare, che diceva appunto a due obiettivi. Il primo sul breve periodo è quello anche di avanzare alla politica delle rivendicazioni chiare rispetto al disagio abitativo. Il secondo, e forse anche quello più innovativo, è quello di provare a trovare una modalità di condivisione di strumenti, di pratiche, di tutto ciò che ci può essere utile, insomma, per fare una discussione pubblica sul tema abitativo, e così appunto da renderla disponibile alla città. E questo ovviamente è un obiettivo sul medio lungo termine che insieme a Caritas, Arci, Rigenerazione a Speculazione e tanti altri vogliamo mettere in campo. C'è stato anche modo di verificare come il problema abitativo in città sia molto composito, dipenda da tanti fattori. Da un lato abbiamo visto anche nei giorni scorsi i problemi legati agli studentati universitari, poi c'è il caro affitti, poi c'è la questione degli affitti turistici, insomma è un problema complesso? Sì, è molto complesso, ci è stato spesso detto di semplificare troppo rispetto a questo problema. Noi invece abbiamo sempre detto che il problema è complesso e che ogni singolo fattore va analizzato nello specifico e va contestualizzato. Certo è che però poi la situazione rimane quella, quindi è vero che i circa 600 studenti, donne non beneficiari, rimasti privi dell'alloggio seppur ne siano in diritto, sono un problema di un certo tipo, come è anche vero che è diverso poi dal parlare anche di Airbnb, tutta la speculazione che c'è dietro quel meccanismo lì. Ci ritroviamo però poi in una situazione che nel suo complesso è esplosiva e, come dire, se ancora ad oggi non ha manifestato, diciamo, tutta la sua drammaticità, noi crediamo che lo farà molto di più nei prossimi anni, se il pubblico, come dire, non compie una scelta politica e radicale di andare verso una direzione diversa, così come hanno fatto tantissime città europee del mondo. Nello specifico, quali potrebbero essere le iniziative che mette in campo il pubblico? La prima, quella che ci ha visto, come dire, sulla base della quale siamo anche nati, diciamo, come comitato, è la regolamentazione delle piattaforme turistiche. Quando dico piattaforme turistiche intendo sia Airbnb ma anche ad esempio Booking, che per esempio non ha neanche mai risposto al comune per tavolare una discussione, un accordo per il versamento automatico della tassa di soggiorno. In questo senso quindi andrebbero riprese quelle normative che citavo prima vigenti in altre città, come per esempio il criterio one home one host, quindi un host una casa, così devono avere poi fenomeni speculativi. C'è poi tanto altro, c'è la richiesta di un osservatorio permanente sulla casa, che sia animato sì dal pubblico ma anche da, diciamo, associazioni studentesche, enti del terzo settore, enti di ricerca, un qualcosa, insomma, che sia continuativo nel tempo e che ci dia la possibilità di valutare e rilevare i trend della città senza poi trovarci a dover intervenire sempre in maniera, diciamo, tardiva. C'è un fondo di garanzia grado affitto, una misura che c'è in tante altre città italiane, ad esempio a Torino, che insomma ridia fiato, come dire, tempo a tutte quelle fasce più deboli della città che magari per un mese, per due mesi non riescono a poter pagare un affitto e si ritrovano poi ad essere sfrattate. C'è la richiesta di consumo di suolo zero, perché noi crediamo che le abitazioni, e questo è suffragato anche dai dati, ci sono a Bologna per poter accogliere chiunque voglia mettere, diciamo, energia a disposizione in questa città. Quindi c'è tanto, e crediamo, insomma, che dovrà uscire un qualcosa che vada verso questa direzione e non verso la città che vogliono i pochi, la città della rendita. Infatti proprio su questo ti chiederei un'ultima valutazione, in particolare di questo percorso istituzionale, appunto con l'istruttoria pubblica. Pensi che, come dire, le vostre istanze siano state raccolte o siano state minimizzate dagli interlocutori? È stato sicuramente un percorso interessante che ha dato l'opportunità alla città di riflettere su un tema su cui, diciamo, da tempo c'era attenzione mediatica, ma, come dire, mai c'era stata una riflessione così approfondita. Quindi sicuramente è stata un'occasione. Su quello che mi chiedi, vedremo, perché l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza nella commissione consiliare sicuramente poteva avere anche alcuni elementi interessanti, ma non coglieva, a nostro avviso, diciamo, l'intenzione complessiva di voler rinnovare le politiche pubbliche in città. Siamo certi che però insomma anche a fronte appunto di un mondo del sociale che si è espresso quasi collettivamente, quasi ad unanimità per questo cambio radicale, speriamo appunto che la politica sappia raccogliere, diciamo, questo tipo di intenzione. Credo che il manifesto però possa essere una buona base per la politica di riflessione, per cercare anche di capire dove si è sbagliato e dove si può far meglio.